Male, ma così. È un bocciato, però forse anche parziale. Si sente? Sì. Dietro? Sentite. Adesso? Sì. Ok. Allora, io sono Laura, ciao a tutte, tutti e tutto. Dico giusto due parole rispetto alle riflessioni che abbiamo fatto nella nostra assemblea e che ci hanno portate a, più lontano, a organizzare questo incontro pubblico e la manifestazione di sabato per supportare Rojava. Parto dicendo dal fatto che il movimento femminista globale ci porta di fronte alla domanda di che cosa vuol dire scardinare tutta una serie di oppressioni e sistemi di potere che viviamo quotidianamente, non solo rispetto a diciamo relazioni tra i generi, ma anche rispetto a tutte quelle connessioni che ci sono tra capitalismo, razzismo, sfruttamento delle nostre vite e nei territori. In generale il Rojava, ma cioè il Rojava in generale, la lotta del popolo curdo e delle donne ovviamente, e per noi è un esempio significativo da una parte proprio di tutte queste oppressioni, ma dall'altra di tutte quelle pratiche che poi sono riuscite a creare una realtà vera, concreta e queste pratiche di resistenza che quindi hanno creato questa realtà, definendo che, cioè dichiarando che questa realtà è possibile, non deve rimanere un'utopia. In qualche modo, quando parliamo della rivoluzione delle donne nel Rojava, appunto nel popolo curdo, parliamo anche di quello spazio che loro stesse si sono create per opporsi a un sistema patriarcale che comunque vivevano anche all'interno della lotta del popolo curdo. Quindi hanno ribaltato quel paradigma che tendeva a definire o a stabilire che la libertà e la liberazione delle donne sarebbe avvenuta con la rivoluzione, forse anche dopo. In qualche modo loro invece hanno ribaltato questo paradigma per dire al contrario: la rivoluzione non può venire se non parte dalla liberazione delle donne. Inoltre oggi per noi è importante ricordare che ricorre purtroppo un anniversario, ovvero la strage di Parigi, in cui tre attiviste curde sono state uccise appunto a Parigi dai servizi segreti turchi, come ovviamente rappresaglia politica. Insomma, partendo da queste riflessioni, per noi è importante parlare di queste pratiche messe in atto nel Rojava, ma non solo, e con una prospettiva critica anche rispetto a quelle pratiche che noi stiamo mettendo in atto negli ultimi anni, diciamo, e che cercano di ribaltare i ruoli di genere e tutto quello che questi ruoli comportano. Per noi ovviamente una pratica che stiamo portando avanti è quello dello sciopero. Anche questo però significa poi domandarci se lo sciopero significa anche sottrazione da queste oppressioni, che cosa arriva dopo, cioè che cosa vogliamo costruire dopo. Vogliamo anche sottolineare che il nostro sguardo non vuole essere, diciamo, esoticizzante. Siamo convinte che le pratiche non siano esportabili e applicabili al di fuori dei contesti in cui queste si costruiscono e si sviluppano, ma per noi è fondamentale provare a tenere insieme tutte queste esperienze che pezzo dopo pezzo costruiscono poi la rivoluzione delle donne e la rivoluzione femminista. Dico solo due parole sul metodo che vogliamo darci in questa assemblea, magari ci presentiamo semplicemente col nome quando interveniamo e cerchiamo quando possibile di non fare degli interventi troppo lunghi per dare la parola a più persone possibile. E Atena, che è sparita nel frattanto, prende gli interventi, però insomma basta fare un cenno e segniamo il nome. Basta, grazie, passo la parola a Eddie. Buonasera a tutte, tutti e tutto. E come si diceva in apertura, oggi ricorre l'anniversario della strage di Parigi, dell'uccisione di Eval Sakineh, di Eval Sara, Leila e Ronaï. E quindi per loro e per tutte le martiri e i martiri che hanno dato la vita per questa rivoluzione, vorrei che cominciassimo con un minuto di silenzio, che ci alzassimo e facessimo un minuto di silenzio per ricordarli. Evan Shahid and Reberti Ame. Shahid Mamadi. La frase che ho appena detto vuol dire: le compagne e i compagni martiri sono la nostra guida, i martiri non muoiono. E ci tenevo a cominciare da qui perché le tante vite che hanno segnato la storia di questa rivoluzione, ma una storia rivoluzionaria, sono la ragione per cui oggi ne possiamo parlare, sono il valore più alto che questa rivoluzione ha e soprattutto sono la garanzia del fatto che non potrà essere, diciamo, strumentalizzata, tradita, perché nel momento in cui decine di migliaia, se pensiamo solo allo scontro con l'ISIS, che sappiamo, immagino, essere solo una parte di questo grande scontro globale, parliamo di 11.000 caduti. Quindi, diciamo, c'è quella della scelta di chi che ha fatto, chi ha dato tutto, è una voce che non può essere smentita, non può essere neanche taciuta. Penso che, seppur in piccolo, possiamo attingere anche alla nostra storia recente, alla nostra esperienza. Se pensiamo a Lorenzo Orsetti, Shahid Kosher, non c'è nulla che parli più chiaramente delle sue scelte. Ed è, credo, anche per questo il motivo per cui poi leggere la sua lettera, la lettera che a tutte e tutti noi ha indirizzato, di fatto poi tocca così, perché c'è un'assoluta, diciamo, non solo comunicazione, ma una continuità tra queste parole, che sono tutto sommato semplici e al contempo importanti, e la scelta di un ragazzo di normale, come tante e tante ce ne sono in questa stanza, di vivere la propria vita al servizio degli ideali che la guidavano. Quindi oggi appunto siamo qui a parlare di Rojava, di una rivoluzione che si sta resistendo proprio. Anche oggi, mentre noi ora parliamo, continuano i combattimenti, ci sono le compagne e i compagni che resistono al fronte, c'è la popolazione che si organizza per garantire che questa resistenza duri. E quindi, diciamo, partiamo un po' dalla fine, cercando di arrivare anche un po' alle ragioni profonde e anche a un po' un inizio, per poi forse scoprire che un inizio preciso di fatto non c'è. Perché se parliamo di rivoluzione in termini di processo, allora è difficile andare a stabilire la data in cui questo processo effettivamente è poi cominciato. Quindi sappiamo, penso tutte e tutti, che il 9 ottobre del 2019 la Turchia ha cominciato questa operazione militare, tristemente chiamata Sorgente di Pace, e ha di fatto continuato quella che è un'invasione che era già iniziata nel 2018 su più larga scala, appunto lo sconfinamento in territorio siriano, ma in particolare nei territori della rivoluzione. Questa data, tra parentesi, non penso sia casuale, ha un forte valore simbolico perché il 9 ottobre proprio di molti anni prima veniva cacciato Abdullah Öcalan dalla Siria. E il 9 ottobre quindi la Turchia vinceva un braccio di ferro che è tuttora in corso, perché se vediamo anche cosa sta accadendo sulla Libia, gli schieramenti non sono tanto cambiati, abbiamo comunque una Siria alleata dell'Iran, della Russia, di tutta una serie di potenze che di fatto sono anche in contrapposizione con la parte del mondo in cui ci collochiamo noi, non sono non sono ovviamente parte dell'Alleanza Atlantica, ma neanche ne sono, ne fanno, ci dialogano troppo. Quindi, questo appunto, la Turchia vince questo braccio di ferro in cui sostanzialmente, i rivoluzionari del Kurdistan, perché di questo stiamo parlando quando parliamo degli anni 90, quando parliamo della cacciata di Abdullah Öcalan dalla Siria, e quindi di un progetto di persecuzione nei confronti di qualunque ideale rivoluzionario nella Repubblica di Turchia, in particolare ovviamente ora parliamo nei confronti del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il PKK, quindi non paga diciamo, il governo turco dopo il golpe militare, di aver incarcerato metà delle persone, l'altra metà se ne va, ma addirittura appunto bisogna estirpare così fortemente qualunque germe di libertà che si possa impiantare in quella terra, al punto tale in cui appunto, bisogna Öcalan non può stare neanche in Siria, va bandito anche dalla Siria. Quindi di fatto io sinceramente non credo che appunto sia cominciata casualmente questa operazione, penso che semplicemente nel 2019 la Turchia ci dice che vuole portare a compimento il progetto che il 9 ottobre di molti decenni prima ha di fatto cominciato. E infatti quando dico metà della popolazione è in carcere, chiunque esprima un'idea contraria viene appunto buttato in prigione o comunque in qualche modo perseguitato. Penso che sia purtroppo lo scenario, diciamo una descrizione calzante dello scenario dello Stato turco attuale, tale e quale, nulla è cambiato. E di nuovo qui penso che ci dica qualcosa sulla struttura stessa. Del progetto, diciamo, sulla strutturalità dell'essere liberticida del governo turco, che ci sia Erdogan o un altro, la Repubblica di Turchia, anche prima di essere una repubblica presidenziale, quindi di dare ancora più potere al suo dittatore, come ha fatto negli anni scorsi, comunque nasce su una negazione, nasce, diciamo, come di fatto impresa di colonizzazione interna, diciamo, alla Mesopotamia, ai territori del cosiddetto vicino e Medio Oriente. Quindi questa invasione, appunto, anzitutto penso che con il corteo di sabato, ma anche con incontri come questo, noi ci prendiamo l'impegno e la responsabilità di non considerare qualcosa di dato. questa guerra lì ormai ha sodato, lo scenario è questo, cioè il puntino del fuoco, della bomba, insomma del conflitto su quella parte della cartina della geografica, e questo è quanto, non c'è nulla che si possa fare. Questo non è assolutamente vero. Se avessimo dato retta, diciamo, a questo tipo di tendenza, adesso chissà, diciamo, non parleremo della rinascita probabilmente di Daesh, ma parleremo del continuum del suo imperio di fatto. Quindi quello che io ora vi vado, diciamo, a raccontare è che cosa si sta bombardando, che cosa si sta di fatto cercando di cancellare, perché quella della guerra cominciata il 9 ottobre è sicuramente un'emergenza umanitaria, perché parliamo di decine di migliaia di persone che hanno perso la propria casa, a partire il proprio corpo, comunque la propria vita, e quindi di appunto persone che sono di fatto adesso in campi profughi, in territori in cui non si fanno arrivare aiuti umanitari, in cui c'è un embargo da tutti i lati. Parliamo di fatto appunto di un'occupazione militare, che delle occupazioni militari a tutti i crismi della violenza e della ferocia. Ma soprattutto anche penso sia importante ragionare sull'emergenza e sulla crisi politica che questa guerra apre, perché nel momento in cui Erdogan di fatto attacca l'unica rivoluzione che in questo momento c'è nel mondo, che non vuol dire ovviamente l'unica manifestazione sociale di rabbia e di affermazione del fatto che questo sistema così non va, ma l'unica luogo in cui di fatto questa tendenza, questa idea ha dato un'alternativa, costruisce e organizza un'intera società. Quindi questa è una crisi politica che penso ci riguarda molto da vicino, nel momento in cui compartecipiamo di quest'idea che questo sistema non può avere vita lunga, o che noi non possiamo avere vita lunga in essa, per dirsi voglia. Quindi non è una crisi politica della Mesopotamia, scelgo la parola Mesopotamia e non Medio Oriente per una questione politica, non vorrei fare mia la visione del mondo in cui l'Inghilterra è il centro e a che punto è l'Oriente si decide da lì. Quindi Medio Oriente è di fatto un termine del colonialismo inglese, e penso che sia anche interessante lasciarlo al colonialismo inglese. Quindi, dicevo, questo è giusto perché così ci capiamo quando parliamo, che penso sia importante. Scusate, ho dimenticato una cosa nella premessa. Io ora andrò avanti un po' veloce, dico... farò un intervento abbastanza breve, anche se proprio la sintesi non è esattamente mio dono, perché vorrei che si instaurasse un dialogo, che questo incontro andasse un po' anche nella direzione in cui lo vogliamo far andare insieme, quindi quali sono gli aspetti che ci interessano di più, diciamo, stabilirlo con voi. Quindi, dicevo, crisi politica che ci riguarda, è l'unico sistema alternativo al capitalismo che ora esiste, in questo momento funziona, perché sicuramente non parliamo di miliardi di persone, però il confederalismo democratico riguarda quasi un poco più di 5 milioni di persone, che comunque non sono poche. Quindi l'esperienza confederale di fatto perché viene appunto attaccata? Perché è profondamente incompatibile con quello che è il progetto che invece hanno tutti i suoi vicini, quindi non solo gli stati confinanti, ma anche lo stato in cui per esempio adesso risiede. Faccio anche una precisazione, il confederalismo democratico è pericoloso anche perché non necessita della continuità territoriale di cui ha bisogno lo Stato. Nel momento in cui il confederalismo democratico non c'è più in Siria, ci sono in Europa anche delle strutture, il confederalismo democratico, c'è cioè il KGK, che è il sistema della civiltà democratica e quindi racchiude qualunque forma di organizzazione confederale nel mondo. Prima ancora di esistere in Rojava, il confederalismo democratico esisteva in Bakur, nel Kurdistan turco, nel 2015 e nel 2016, prima di ingaggiare la guerra esterna. Erdogan ha ingaggiato quella che erroneamente ora io chiamerò guerra, perché quando il secondo esercito della NATO si scaglia contro la popolazione difficilmente definibile tale, però appunto ha compiuto una feroce guerra interna. Non so se ricordate i coprifuoco negli scantinati di Gizire, le immagini agghiaccianti che arrivavano da quei giorni. Ecco, il risultato di ciò è che, per esempio, per quel che riguarda il Bakur, il movimento dei giovani, che è sempre stato qualcosa di potentissimo, numerosissimo, adesso è composto da pochissime persone, e non perché abbia perso, diciamo, la capacità di comunicare con le giovani donne, i giovani ragazzi che sono in quella parte di territorio, ma perché la maggior parte sono caduti martiri durante questa guerra e coloro che sono rimasti sono in prigione. Quindi quello che dicevo è che appunto il sistema confederale è una minaccia non solo per quello a cui vuole arrivare, diciamo, lungo il percorso, perché è chiaro che siamo in delle fasi anche di, appunto, c'è una processualità, ci sono anche degli obiettivi medi che si raggiungono poi cammin facendo per arrivare a quello più alto, che poi non ha una forma definita, cambia anche in corso d'opera, perché la sensibilità anche delle generazioni che crescono nel confederalismo democratico è differente da quella di coloro che sono cresciute e cresciuti invece nel sistema capitalista o in una situazione profondamente coloniale come quella del Kurdistan. Quindi la sua incompatibilità sta anzitutto, come dicevo, c'è una, questa è più che altro una differenza forse, ma una differenza sostanziale che comunque fa sentire il fiato sul collo a quelle strutture di potere che invece necessitano una continuità territoriale, perché se nel tuo pezzetto, diciamo, di terra su cui eserciti il tuo potere si infiltrano altre forme di vita, cominciano a germinare di fatto forme di organizzazione sociale differenti, a te si leva di fatto il terreno sotto i piedi, e questa è anche una grossa peculiarità del confederalismo democratico e del suo rapporto con lo Stato, nel senso in cui le istituzioni confederali di fatto esistevano anche e esistono ad oggi entro dei confini statali, ma qual è la loro, quindi, diciamo, il loro portato rivoluzionario? Rompono il rapporto di dipendenza che nei confronti dello Stato c'è, cioè rendono, appunto, gli levano il terreno sotto i piedi e lo fanno sgretolare come il mostro d'argilla che è, nel momento in cui si costruisce l'esperienza effettiva e quotidiana del fatto che tutto quello che lo Stato ci dà possiamo darcelo da soli, anzi ce lo dà grazie al nostro stesso lavoro, e quindi può anche muoversi secondo maglie differenti, secondo fini differenti, che non sono quelli appunto del tenere in piedi questo Moloch, ma sono quelli di vivere la miglior vita possibile tutte e tutti insieme. Quindi appunto c'è una... questa incompatibilità di cui parlo credo sia un'evidenza di fronte a tutte e tutti, nel momento in cui si dice che ciò a cui il perno attorno a cui il confederalismo democratico si struttura è la libertà delle donne e la loro autonomia, già c'è qualche differenza con il mondo in cui viviamo. Poi altro valore irrinunciabile è l'ecologia, e ecologia intesa proprio come la si sta cominciando a intendere anche qui ora, come cambio di paradigma, cambio di vita, di rapporto con il territorio, l'ambiente e la natura, e l'autogoverno, la democrazia radicale. Quindi vediamo che, cioè, non credo ci sia posto neanche anche per solo una di queste cose nel mondo in cui abitiamo in questo momento, o meglio, c'è posto per queste cose finché non mettono in discussione quello che esiste, quindi c'è posto, per carità, anzi c'è pure la multa se non fai la raccolta differenziata magari, la voglia, se c'è posto per tantissime iniziative tipo orti urbani, io so di Roma, magnati di te, i tuoi produttori da Togliatti, cioè nel senso, quindi c'è posto per tutto finché non mette in discussione, c'è posto per le donne nella società a patto che stiano nei percorsi che gli uomini hanno per loro disegnato, cioè li abbiamo anche ascoltato, li abbiamo fatti proprio così come li volevate voi, eccoli. E non vado avanti, diciamo, ridicolizzando ulteriormente, perché penso che l'antifona sia chiara e soprattutto di fronte a tutte e tutti. Quindi sostanzialmente dicevo appunto una crisi politica, perché quello che si sta facendo è dire c'è una soluzione, ci sono questi problemi che uniscono tutto il mondo, perché tutte le piazze del mondo sono riempite da le giovani Fridays for Future, sono noi come rete, non una di meno, esistiamo grazie a una chiamata delle compagne in Argentina, in una menos, in India, adesso tutte le, dal Cile a veramente l'Africa nord e subsahariana, in tutti i luoghi del mondo, queste sono di fatto le questioni che stanno animando dibattiti sociali, che stanno cambiando anche magari rapporti di forza in determinati paesi. Allora, a queste questioni sembra non ci sia soluzione, ma è tutto sempre molto complicato, molto fuori dalla nostra portata, perché poi ci sono tutta una serie di meccanismi che noi non possiamo capire. E poi c'è un'esperienza nel mondo che dice no, una soluzione c'è, si può trovare. Poi non per forza la vostra è quella che abbiamo trovato noi, ma finché noi esistiamo questo è certo. E anche quando non esisteremo più, il fatto che siamo esistiti è la prova tangibile del fatto che se questi problemi si mettono al centro e risolverli, trovarne una soluzione è una priorità. Con tutte le teste che siamo qua, anche solo, penso che comunque l'idea buona la riusciamo a mettere insieme. Quindi cambia anche sostanzialmente il valore anche di come per esempio ci si relaziona, nei termini in cui la differenza sostanziale, per dirla nel quotidiano, se adesso io e Atena discutiamo di come dovrebbe essere l'educazione, di come dovrebbe essere la formazione in questo paese, magari abbiamo avuto un dibattito bellissimo, io me vado a casa arricchita, lei anche, però domani funziona tale quale, cioè non è che abbiamo fatto niente al MIUR. Se invece noi viviamo nel confederalismo democratico, ecco, quella discussione forse può essere una delle basi su cui si strutturerà il sistema di formazione di cui noi faremo parte, a cui andranno magari i nostri figli, le nostre sorelle, fratelli, insomma, di cui tutta la società poi sarà partecipe. Ecco allora che cambia anche la voglia di farsi un'opinione, per esempio, sulla cosa, l'impegno che anche comunque formarsi, farsi un pensiero critico di fatto richiede, ecco, ha tutt'altro sapore nel momento in cui poi ha significato, determina qualcosa. Tutto questo appunto è confederalismo democratico, che sostanzialmente è un sistema politico che non nasce anche dall'analisi dei problemi dello Stato-Nazione, soprattutto in Mesopotamia, perché è di fatto un prodotto proprio esportato, e quindi in un territorio che ha una differenza sostanziale rispetto al nostro, anche se poi non è così vero, perché anche la storia diciamo del vecchio continente è una storia di colonizzazione interna, prima senza portare a termine quella non si sarebbe potuta, diciamo, ambire o organizzare quella esterna. Comunque almeno diciamo qui c'è un po' di omogeneità tra cultura, lingua, diciamo di popolazione c'è. In Mesopotamia da quei tempi che sono una reminiscenza degli studi della scuola primaria per tante e tanti, non dico per tutti. Invece così non è, ci sono culture, popoli, religioni molto differenti che da sempre vivono nello stesso luogo, cioè non c'è la città cristiana, la città araba, la città curda, la città musulmana, la città levita, c'è una città e ci sono cristiani, ci sono musulmani, ci sono gli alleviti, ci sono gli esiti, e questo è da sempre. Quindi è chiaro che imporre i crismi dello Stato-Nazione, che sono una lingua, una cultura, una bandiera, diventa qualcosa di molto più, forse di ancora più violento di quanto non è stato qui, che comunque è stato anche qui violento. Quindi io adesso, diciamo, direi una mia impressione e poi lascerei le domande, così chi ha voglia magari di interloquire su qual è lo scenario geopolitico, chi ha voglia di sapere di più nello specifico le strutture confederali, chi ha un senso, insomma, ci diamo spazio un po' per tutto. Però penso che ci sia, cioè io sono stata, ero già quasi un anno dal 2017, cioè da settembre 2017 a luglio 2018, quindi è un po' che sono tornata. Da quando sono tornata io, con un ritmo forse anche un po' troppo serrato per il mio corpo, però questo è un altro discorso, ho tenuto moltissimi incontri di questo genere e sono sempre partecipati e c'è sempre interazione, c'è sempre discussione, c'è sempre coinvolgimento. Allora io non credo che questo tema sia, diciamo, più interessante di altri di per sé, perché ci sono tante esperienze nel mondo di cui vale la pena parlare, per cui vale la pena riunirsi tutto qui per pensarle, apprendere, dialogarci. Però la differenza tra questa e tutte le altre è che questa propone un'alternativa, cioè questa dà una soluzione. Nel momento in cui critica le stesse cose che noi critichiamo, dice anche c'è un altro modo. E non lo dice soltanto, perché non esiste, diciamo, teoria senza pratica. Quindi penso che ci sia un interesse non solo appunto legato anche al fatto che comunque questo paese ha dato due martiri a questa rivoluzione e non sono poche di fatto le persone che a vario titolo hanno passato del tempo lì, hanno contribuito, hanno scelto di prendere parte, di cercare di vivere secondo una massima per cui comprendere e mettere in pratica, e quindi hanno scelto non solo di cercare di capire, o meglio, hanno inteso che per capire quella cosa bisogna farne parte in qualche modo. E quindi penso però appunto che il valore di questa rivoluzione sia proprio questo, che di fatto offre la possibilità di ragionare su una società alternativa, ci dà terreno sotto i piedi quando andiamo in giro dicendo che no, non è l'unico mondo possibile, no, che le cose siano così non è naturale. E quindi credo che questa sia, diciamo, la cosa secondo me più interessante da cui partire, e quindi niente, io mi taccio e poi, diciamo, dialoghiamo e rispondo alle vostre domande. No, volevo dire una cosa di servizio, che qua dietro c'è un po' di spazio, quindi se ci vivomete ci vogliamo un po' allargare, insomma non è una zona, diciamo, privata, ma possiamo venire anche qua dietro. E apriamo gli interventi con una compagna iraniana Saima, che voleva dirci delle cose e poi deve andare via, quindi. Buonasera a tutti. Io prima di tutto vi chiedo un gran applauso per queste donne coraggiose e tante come loro. Grazie. Scusate, io ho pochissimo tempo, che dopo devo scappare via. E tanto sapete che sono iraniana. Ci sono delle persone qua dentro che l'ho visto, che mi conoscono da 40 anni. Anch'io vengo da un paese sotto le persone da 40 anni. Adesso gli ultimi 2-3 giorni stanno parlando tantissimo dell'ira. Tutto basta un attimo di intelligenza, riusciamo a capire anche perché. Noi vogliamo sapere dove sono finiti tutti i carcerati, dei manifestazioni che è stato mese di novembre. 1500 ragazzi che sono stati uccisi, ma avete mai sentito parlare di loro? Portiamo la voce di loro. E voi che vedete che siete attivi, parlate dei diritti umani, parlate di questo popolo che è stato sempre un popolo sofferente in tutta la parte, in Iran, in Turchia, in Siria. Io chiederei un aiuto da tutti voi, anche per sabato. Vi prego, parlate anche dell'Iran. Parlate che non si alzasse una guerra. Non si alzerà una guerra. Sarà un gioco bruttissimo tra i potenti, però ci rimettono povera gente. E vogliamo sapere la verità su tutti i detenuti che carceri in Iran sono extrafollati da 40 anni. Da 40 anni che hanno massacrato, hanno ammazzato migliaia e migliaia di giovani e non si fermano ancora anche in questi giorni. E una cosa che vi volevo dire su questo fatto, l'ultimo fatto che è successo, voi avete saputo o no che c'è stata delle grandi manifestazioni pacifiche in mese di novembre, però sono stati attaccati con carri armati, con elicotteri da su, non hanno dato il permesso ai genitori di fare la cerimonia. In Iran c'è un rito che 40° giorno dei morti si fa una cerimonia. Quel giorno hanno bloccato tutti i cimiteri, hanno arrestato tutti i genitori di questi ragazzi e chi andava verso il cimitero. Questa è l'umanità nel mio paese. E quel signore lì, che non chiamo neanche il signore, questo qua, esattamente il suo 40° giorno capita 11 febbraio, che sarebbe la giornata di cerimonia di rivoluzione islamica. Credo che abbia già detto tutto. Grazie. Non fate un timido. Sulla scia di questa domanda, se dovessi avessi uno spazio e avessi la possibilità di far nascere un embrione del confederalismo democratico qua ora, come ti muoveresti? Quali sarebbero le mosse che faresti per farlo? Bam! Consigli operativi. Allora sia facile. Questo però ne parliamo. A Maddalena rispondiamo in un altro incontro su questa cosa qui. Come si è arrivati là al riconoscimento della lotta al patriarcato come priorità anche tra i maschi? Se e quanto e come ci si è arrivati, ovviamente. Comincio dall'ultimo anche per mascherare che la seconda mi ha messo più in difficoltà, cioè. Allora, come si è arrivati? Questa è una storia bellissima che adesso io non vi racconterò perché è anche molto lunga e non vale la pena mortificarla, però appunto se ne parlava un po' all'inizio, c'è proprio un'inversione di fatto in questa rivoluzione. E sostanzialmente penso che il discorso sia su due piani, e che sono quelli che di fatto appunto cioè di analisi e di prassi che non possono mai andare l'una distante dall'altra, altrimenti l'analisi senza prassi, so belle parole, la prassi senza analisi difficilmente riesce a trovare una direzione poi e quindi effettivamente a sedimentare il suo potenziale trasformativo. Quindi da un lato c'è il fatto che parliamo di un movimento di liberazione nazionale che segue tutti i crismi, diciamo, delle sue alleanze e ha una forte impronta appunto marxista-leninista, guarda molto alla rivoluzione cinese, guarda molto alla lotta di liberazione in Algeria, guarda molto alla resistenza in Vietnam e nel costruire, diciamo, nel guardare molto, a un certo punto però si ritrova in un mondo che è quello, diciamo, post caduta del muro, in cui tutta una serie di quelli che sono i grandi blocchi del mondo appunto si di fatto vengono meno, e quindi tutta una serie di letture tanto del marxismo-leninismo ma anche di altre tradizioni che in questo solco si impiantano, cioè si scontrano sul duro muro della realtà, ovvero che non potranno andare così le cose, così come erano state magari teorizzate o presagite o narrate. Quindi comincia un profondo lavoro di messa in discussione del proprio stesso pensiero, e in questo lavoro di messa in discussione si fa un'analisi e un corpo a corpo serrato con tutte queste esperienze, e non solo, adesso io ne ho citate alcune, ma veramente c'è un'attenzione, anche cioè la storia è un campo di battaglia ed è stato ingaggiato in quanto tale, quindi si dà anche dignità, ricchezza e importanza anche a quelle esperienze che magari sono finite male e non tanto nei termini di repressione, magari non perché male perché non sono state vittoriose, ma anche perché magari sono snaturate dopo la loro vittoria e hanno non sono di fatto riuscite a distanziarsi tanto dal nemico con cui combattevano, e c'è un filo rosso che lega tutta una serie di esperienze, appunto si dice vediamo quali sono stati gli errori fatti, analizziamo bene questi processi per capire dove di fatto si è inciampati, perché noi non siamo meglio di loro, cioè anche loro, chiunque di queste è partito con le migliori intenzioni, quindi di certo non è quello il problema, evidentemente c'è qualcosa che si è perso lungo la via. E diciamo uno dei punti che tiene insieme tanti tentativi rivoluzionari, tante esperienze rivoluzionarie più o meno, diciamo, riuscite, anche tante resistenze, quindi rivolte, non solo rivoluzioni, è il paradigma di cui si diceva prima: la libertà delle donne arriva insieme alla libertà della società. Invece forse questa forma mentis è uno dei problemi, perché se ce l'avevano tutti hanno fatto una serie, diciamo, sono persi per strada o non sono riusciti a vincere per un motivo o per un altro, forse questo è di fatto uno dei problemi, anche perché nel momento in cui diciamo il capitalismo è anzitutto una relazione sociale oltre che un modo di produzione, ecco che forse tante di queste analisi non sono andate poi così nel profondo su questa relazione sociale, e andando nel profondo ad analizzare questa relazione sociale si scopre che in effetti comunque questa relazione sociale ha avuto delle condizioni di possibilità su cui impiantarsi, e le condizioni di possibilità che il capitalismo ha avuto per nascere, crescere e diventare il più longevo sistema di dominio che conosciamo al momento è quella dell'oppressione patriarcale, cioè quelle sono le condizioni di possibilità del capitalismo, quindi non c'è lotta al capitalismo senza lotta al patriarcato, cioè dov'è che di fatto la società è più brutalizzata, è più mortificata, è più frammentata ed espropriata del proprio lavoro tra le donne. Quindi se si vuole operare una rottura profonda, radicale, nei termini di alle radici di quello che è questo sistema di dominio, quello è un punto imprescindibile. E poi c'è il discorso della pratica, cioè il modo. Comunque la qualità, il vigore, la forza, la caparbietà di questa lotta nel momento in cui tante, sempre più donne l'hanno attraversata, è cresciuto, è cambiato. Quindi, e questo appunto, anche perché comunque c'è una donna ha meno da perdere tendenzialmente nell'ingaggiare questa battaglia. Tornare a, diciamo, alle certezze che si avevano prima, a tutta una serie, diciamo, di limiti che poi anche il cambiamento, anche molto normali e comprensibili, no? Cioè, comunque l'ignoto spaventa chiunque, però se quello che avevi dietro è peggio, tendenzialmente avrai motivo in più per andare avanti. E questo storicamente è accaduto. Cioè, ci sono state delle fasi di questa lotta che erano profondamente difficoltose, in cui c'era una grossa crisi anche di convinzione, e sono state compagne che hanno dato svolte sostanziali. Penso all'azione di Shaikh Zilan, in un momento in cui sembrava che il nemico stesse di fatto completamente annientando la resistenza curda in Bakur, in Kurdistan turco. Zilan fa un'azione fedai, sacrificale, si fa assaltare in un commissariato, in una base di guardie turche, e la resistenza si riattiva, riprende vigore, cioè la lotta trova una nuova fase. O l'esempio di Shahid Beritan. Shahid Beritan era una delle prime, una delle pochissime comandanti donne che c'erano negli anni 90, e in quella fase una serie di compagni soprattutto comincia a farsi diciamo a rendere un po' diffusa, a promulgare l'idea che forse si può anche andare, diciamo, si può dialogare col nemico, si può trovare un accordo forse, che in fondo sono 10 anni che siamo in montagna a fare la guerriglia, cioè abbiamo già ottenuto tanto, abbiamo fatto vedere che siamo una forza rivoluzionaria, ora basta. E ha l'obiezione, ma che cosa abbiamo raggiunto, scusa, finora? Cioè che abbiamo resistito, ok? No, ma continuiamo la lotta, solo prendiamoci un momento di tregua, per esempio. E a questi discorsi venivano, diciamo, cioè seguivano delle azioni proprio in cui di sabotaggio, sostanzialmente autosabotaggio, perché poi che cosa facevano? Non combattevano, cioè i comandanti dicevano al proprio battaglione di non combattere, o prendevano accordi con i comandanti del nemico per, diciamo, accordi personali. In questo scenario, in cui comunque sicuramente una resistenza così richiede una certa convinzione, richiede anche tanto lavoro, sacrificio e fatica, alcuni cominciano a dire, ma forse in effetti non è così bislacca questa idea, cioè potremmo andare un attimo a riposarci pure noi, farci la famiglia, i figli, tutte quelle cose lì. Beritan, con il suo battaglione, si trova in uno scontro con i Peshmerga, una formazione combattente curda anche questa, perché qui rompiamo anche una base etnica di questo movimento e soprattutto di questa rivoluzione, perché il movimento di liberazione curdo è la forza trainante, ma riconoscere alle compagne e ai compagni la vittoria che hanno ottenuto è non parlare, per esempio, di rivoluzione curda, perché si è fatto tanto, si è lavorato tantissimo per includere tutte le nazionalità, tutti i popoli che in Siria sono, e quella è una rivoluzione curda, araba, sira, circassa, turcomanna, cecena e altri ne potrei dire. Quindi questo per dicevo appunto, questo per dire, non è che i curdi hanno infuso il gene della resistenza rivoluzionaria, della lotta rivoluzionaria, si fanno delle scelte, ci sono dei curdi che hanno fatto altre scelte, tra cui questi che sono alleati della Turchia, per esempio il governo del Kurdistan iracheno, e direi che in questo momento in particolare è un tassello importante dello scenario che ci si apre davanti, è completamente al servizio del governo turco. Questo da sempre, tra parentesi, è una strategia che penso molto in piccolo, certamente su piani diversi, ma che penso si conosca un po' a tutte le latitudini. I curdi buoni, che sono quelli che si fanno dare i soldi alla Turchia, e i curdi cattivi, che sono quelli che resistono sulle montagne, ma che vorranno mai, quelli sparano, quegli altri invece ci stringono la mano. Quindi dividere tra buoni e cattivi quando si crea un'identità, che in questo caso è quella della resistenza curda, o in altri casi può essere quella di movimenti sociali, è una strategia ben nota e lungamente, diciamo, anche applicata, perché anche efficace talvolta. E Verità in tutto questo appunto affronta con il suo battaglione una formazione di un battaglione di Peshmerga che di fatto in questa battaglia cadono tutti i compagni membri del Tabur di Verità, che ritrovatasi sola sulla rupe della montagna in cui si combatteva, distrugge tutte le armi delle sue compagne, dei suoi compagni, perché nessuna delle loro armi poi venne usata contro altri compagni e compagni dopo. E le viene detto dal comandante di Peshmerga che la sua vita è salva, che lei non è più un problema, non nuoce più, cioè è rimasta da sola, non è che potrà tendenzialmente sconfiggere da sola il battaglione. Dice: arrenditi e la vita ti sarà salva. E Beritan risponde: piuttosto che vivere da schiava, la mia vita finisce qui. Questa e si getta dalla rupe. Questa storia, tra parentesi, non solo è il presupposto su cui poi nascono le formazioni combattenti femminili in montagna, perché il congresso delle donne che poi, cioè il congresso del partito che arriverà dopo questa azione, stabilirà che c'è una differenza con cui le donne lottano, e se stiamo facendo, diciamo, stiamo predicando la differenza come ricchezza, allora questa differenza è una ricchezza, è una ricchezza nostra, cioè delle forze rivoluzionarie, quindi non solo va valorizzata ma va approfondita, va garantita in qualche modo. E appunto non per un discorso essenzialista, non perché le donne naturalmente vengono al mondo con la rivoluzione in testa con la lotta al patriarcato infusa nelle vene perché sono donne, ma perché c'è un'esperienza comunque storica, sociale anche, che fa da appunto un'esperienza dell'oppressione che è di un certo tipo, a certi crismi, e soprattutto, essendo particolare, elabora strategie anche a partire da quella condizione, e quindi è necessaria proprio in quanto tale. E appunto non solo nascono queste le formazioni combattenti femminili, ma appunto si ristabilisce la linea della resistenza. L'atto di Verità dice chiaramente: arrendersi è tradire, e tradire le compagne e i compagni con cui hai diviso tutto, e che per la causa a cui loro hai detto, guardandole negli occhi, in cui credi, è qualcosa di molto, molto difficile, per fortuna, nel senso che è di fatto poi un qualcosa che ti rende forse in prima persona responsabile di quella morte, perché quando si dice che i martiri non muoiono è qualcosa di veramente È qualcosa di molto vero, perché nel momento in cui una persona coincide con i propri ideali, poi essi diventa, e semplicemente finché quegli ideali avranno gambe per marciare nel mondo, quella persona cammina insieme a noi. Questo vale per tutte le martiri, per tutti i martiri. Soprattutto io personalmente poi penso anche che nel momento in cui si sono conosciute compagne e compagne straordinarie come quelle di cui guardiamo i visi oggi e che ricordiamo oggi, beh, è intollerabile che tutto quello che portavano, diciamo, loro nel mondo poi di bello scompaia, e quindi ci si prende anche la responsabilità di continuarlo. E quindi, comunque, per tornare alla domanda sul patriarcato, il discorso è abbastanza, appunto, c'è un'analisi storica tanto delle condizioni, cioè del nemico, quanto anche invece degli alleati, delle esperienze che si considerano, di cui si considerano sorelle, e appunto una partecipazione nel momento in cui negli anni 90 la maggior parte degli uomini sono in prigione, tantissime donne si incontrano davanti a queste prigioni e si scoprono non solo sostenitrici dei propri familiari, mariti, amici, ma si scoprono, cioè, convinte di quegli ideali. E allora si fanno anche la domanda del perché non dovrei lottare anch'io allora per essi, perché non faccio io allora quello che di fatto la persona che ora è in carcere faceva prima e che io appoggiavo, ora questa persona non può farlo, e quindi c'è un'adesione veramente appunto massiccia di donne, e questo porta di fatto, mette in luce che c'è una specificità. Allora, questa, diciamo, incrociando queste due cose, si dice ok, non è che la rivoluzione porterà la libertà delle donne, è la libertà delle donne che porta alla rivoluzione. E questo penso che sia anche un meccanismo, diciamo, analizzabile sotto tanti punti di vista, perché di fatto se il pezzo più oppresso della società mette in discussione la propria subalternità, la rompe e ridefinisce anche la propria identità su quella rottura, su un'acquisizione quindi di forza, allora inevitabilmente tutte le altre identità a cascata si interrogano. Cioè, se io non sono donna perché non sono un uomo e non ho il pene, non sono forte e non sono razionale, ma definisco l'essere donne anzitutto lo stacco da una condizione biologica inevitabile, diciamo, che qui, su cui quindi in qualche modo ci si insegna, che ci viene appunto naturalizzata, perché dovrebbe avere a che fare appunto con la natura, con la N maiuscola, ma definisco questa identità su una lotta, su appunto una anche su, non a partire dal problema, ma andando e guardando insieme verso la soluzione. Ecco che anche tutto il resto, allora se donna non vuol dire più quello che credevo di prima, ma vuol dire quest'altro, e che cosa vuol dire maschio, uomo, che cosa vogliono dire tutte le parole che usiamo? Ma questo vale anche, penso, per tantissime, appunto, vale anche per l'italianità. Cioè, se dalla Sardegna, dalla Sicilia mi dico io sono sarda, non sono italiana, io mi domando che cosa vuol dire essere italiana, e soprattutto anche se lo voglio essere, e se quel modo lì di intendere quell'identità funziona per me e come la devo eventualmente ridefinire. Ed è qui anche, penso, che si veda il nesso anche appunto tra lotte territoriali e lotte che hanno spesso un protagonismo di giovani, di donne nelle prime file, perché comunque c'è anche la forza della gioventù, o la possibilità riproduttiva delle donne vengono viste in continuità con le risorse naturali, che per esempio brutalmente estraiamo dal sottosuolo. Allora, se io posso crepare qualunque cosa, qualunque parte di sta terra può di far profitto, tu al pari, diciamo, di quel petrolio che sta là sotto, c'hai le braccia, sei disponibile, c'hai l'utero, sei disponibile al mio fine tanto quanto. E quindi anche il partire da una lotta anticoloniale sicuramente è stato qualcosa di molto determinante, perché anche lì, per esempio, si è fatta esperienza del fatto che essere curde non era, diciamo, tutto, perché poi siamo anche donne e comunque c'è un conflitto tra i generi che non si risolve nella nostra identità nazionale. Però allora siamo donne, ma siamo anche curde, perché per esempio il movimento femminista in Turchia, ai tempi della nascita delle cosiddette rivoluzionarie del Kurdistan, aveva difficoltà ad accettare che loro si definissero curde, perché dice: no, siamo qui in quanto donne, ci dividete la lotta se voi siete donne curde, noi siamo donne e basta. Cosa che penso sia un argomento che poi suona anche a orecchie che magari frequentano assemblee al giorno d'oggi. Questo anche penso sia, appunto, la storia di questo movimento ha tanto da dirci, perché poi tutto sommato affronta e ha affrontato anche tanti problemi che ci ritroviamo ad affrontare quotidianamente, laddove cerchiamo di organizzarci insieme per trasformare questo mondo. Quindi vado a dire, metto un po' insieme le due domande. Sì, ci sono, certo che ci sono embrioni di confederalismo democratico, ma ci sono sempre stati. Cioè, ora leviamo la parola confederalismo democratico, perché magari diventa un riferimento troppo specifico, e, però mettiamo resistenza o rivoluzione al suo posto, e ce ne sono sempre stati. Cioè, la storia, diciamo, del dominio, la storia ufficiale è tale proprio perché ha taciuto tutto ciò che si è opposto, tutte le forme di resistenza. Non c'è mai una linearità netta tra, appunto, il fatto che il capitalismo sia così, sia un sistema che abbraccia il globo intero e che di fatto attacca l'essere umano e cioè gli leva tutto, veramente ciò che può. Non è però di fatto la realtà di una colonizzazione dell'umano fino all'ultimo, anche perché gli serve. Cioè, serve al nemico quella capacità di immaginazione, innovazione che noi qui mettiamo, o nel momento in cui agiamo insieme, mettiamo insieme. Quindi penso che non solo ci sono sia germi di confederalismo democratico propriamente detto, nel senso che ci sono tantissime comunità, per esempio la maggior parte delle comunità curde in Germania si organizza così, non ha tanto da domandare allo Stato tedesco, perché ha un'assemblea con un sistema di copresidenza, cioè un presidente e un presidente, che in quel momento ha la responsabilità di farsi carico di, appunto, dirigere quel processo collettivo in cui abbiamo un problema e lo risolviamo. Ma io penso che ci siano germi di possibilità rivoluzionaria veramente, cioè, in ogni parte di questo paese, nessun territorio escluso, perché di fatto ciò che manca è la capacità di metterle insieme, queste micro resistenze quotidiane, queste piccole o grandi esperienze di lotta e di sperimentazioni di alternative. La mancanza non è di questi semi, è forse della nostra capacità di prendercene cura e farli crescere. Ogeran dice che la rivoluzione è più bella dei giardini, perché ogni fiore risplende del suo colore e ogni fiore ha un colore diverso. Quindi talvolta forse abbiamo, per esempio, una capacità, magari come gruppi che si organizzano, a mettere davanti un'identità di gruppo rispetto a un progetto politico, e lo fa un gruppo, lo fa l'altro, lo fa l'altro, non arriviamo a nessuna parte. E questo però non è, il discorso non è rinuncia alla tua identità, ma compagno, compagno, mettiamo, compagno, mettiamo in campo un progetto, perché una volta che abbiamo un progetto in cui crediamo, una volta che diciamo c'è anche un certo quadro etico che condividiamo, allora tante delle differenze che ci sembra che ci rendano così distanti, di fatto magari non scompaiono, però sfumano. Sicuramente quelle linee così nette diventano un po' più di fatto porose. Quindi io cosa farei? Mi troverei delle compagne, dei compagni, e mi organizzerei con loro, perché da sola penso che, però io rispondo così non perché immagino che tu mi abbia conferito questa, diciamo, capacità di, adesso vi dico cosa fare, però colgo il tuo spunto per sottolineare questo fatto, che è qualcosa da cui non si può prescindere e soprattutto attraverso cui è molto bello passare, perché come dicevo prima, poi se il confronto, quando facevo l'esempio di Iotena che parliamo della formazione, ecco, se dall'incontro, dal trovare un punto in comune, da trovare un obiettivo anche comune, io che cosa ho in cambio? Una vita migliore, nulla più, nulla meno. Una vita più degna d'essere vissuta, qualcosa di più interessante, qualcosa che non mi fa chiedere la mattina ma che ce faccio qua, perché non so voi, ma io tante volte quando devo regalare metà della mia giornata a un lavoro che mi fa schifo per mettere insieme i soldi per una bolletta che non ne ho manco ben capito perché la devo pagare, e poi mettere insieme i soldi per un aperitivo che mi faccia dimenticare sta giornata, boh. Cioè, non mi servono tanti anni, diciamo, di questa cosa per capire che a un certo punto mi stuferà, o comunque sento un profondo senso di soddisfazione, alienazione, e soprattutto perdo anche capacità e strumenti per capire e elaborare e narrare quello che ho intorno, no? E a non avere questa capacità di dialogo, di incontro, anche di scontro, cioè di un certo tipo di conflitto e di un certo tipo di ingaggio e messa in gioco in quel che faccio, quello che ho è una perdita di autonomia, perché poi non mi so dare non mi so dare le parole per esprimermi, non ho gli occhi per guardare, non ho le orecchie per sentire, di fatto. E quando non ho queste cose, io ho bisogno di qualcuno che mi dica qual era la direzione, che mi ripeta che cosa devo pensare e che mi racconti di fatto che cosa ho davanti. E quindi penso che semplicemente quello che è molto importante è anche arrivare a rendersi conto che comunque nessuno è fuori da questo sistema. Cioè, non possiamo considerarci parte della soluzione se non ammettiamo che siamo anche parte del problema. Questo è poco ma è sicuro, e scusatemi tanto, perché poi di fatto non esiste, dicevo, la rivoluzione è un processo, cioè non esiste il giorno in cui c'è la rivoluzione e per adesso così la dico scema, però cioè, non è che sono arrivata in Siria, mi hanno bagnato nell'acqua della rivoluzione e ne sono uscita compagna, cioè non è andata così, non va così per nessuno. Io, come tutte le persone, e questo è proprio messo a sistema, dovuto intraprendere un percorso di messa in discussione di tutta una serie di convinzioni, di tutta una serie di automatismi, di tutta una serie di atteggiamenti che neanche sapevo di avere, magari. E questo viene messo a sistema perché appunto vale per tutti, vale per tutte, vale per tutto. Non esiste un momento in cui non abbiamo mangiato il pane avvelenato di questo sistema. Allora io penso che Ogelan lo dica nella maniera più efficace che si può trovare. Ogelan parla di vomitare il sistema. Per me è una metafora straordinariamente pregna nel momento in cui proprio parla di come ci sia un cambiamento fisiologico che bisogna attuare, e se il mio appunto apparato digerente è abituato a nutrirsi di patriarcato, xenofobia, razzismo, tutto quello che è sfruttamento, insomma tutto ciò, individualismo, tutto ciò che caratterizza questo mondo attualmente, richiede un cambio profondo, arrivare al punto in cui il mio stomaco rifiuta quel nutrimento, ne vuole un altro, il mio corpo funziona con altri input, e questo non lo si può fare singolarmente, perché singolarmente non è qualcosa che può di fatto effettivamente avvenire, ma non solo perché io da sola, come chiunque altro, non si cambia il mondo, ma anche perché non si hanno strumenti, non si è in grado, è difficile comunque non solo guardarsi molto sinceramente, essere onesti. Un altro dei motti che la rivoluzione ha fatto suo è conosci te stesso, ed è qualcosa di anche profondamente collegato all'autodifesa, cioè conosci te stesso perché saprai anche quali sono i tuoi punti di forza, saprai invece quali sono i tuoi punti di debolezza, e sarai anche in grado di dare quel che hai e metterlo a servizio della causa comune e collettiva nel miglior modo possibile. E l'autodifesa non è qualcosa che va sviluppato nel momento in cui c'è un attacco. L'autodifesa è un corollario di qualunque essere vivente, e non solo quello, anche la differenza è tale, non esiste ecosistema che non abbia elementi che scambiano fra loro qualcosa di differente. Quindi penso che appunto quello che è importante e necessario fare, soprattutto quando ci si pone, quando si ha questa rivoluzione nel cuore, quando si sente il dolore che queste guerre stanno causando, e quando ce ne si preoccupa, una rivoluzione può essere alleata solo con altre rivoluzioni, può avere delle alleanze tattiche di guerra, per esempio, come quella con gli Stati Uniti, come quella che c'è stata con la coalizione internazionale, ma quando parliamo invece degli obiettivi di lungo termine, quindi della strategia, ecco, lì non ci si può non alleare altro che con coloro che hanno lo stesso obiettivo, la stessa anche idea del mondo e della società, che chiaramente nessuna parte del confederalismo democratico è mai diviso con Stati Uniti o la Russia o l'Unione Europea o chiunque sia intervenuto in questo conflitto. Quindi appunto, per esempio, se ci convince quest'idea che la rivoluzione è un processo, e noi in Italia parliamo per esempio di sciopero come processo, che cosa vuol dire questo per noi? O senza che prendo questo filone che anche è sconfinato anche questo, per chiudere, se io supporto le lotte e davvero lo faccio, altro non posso fare che lottare. Se vogliamo un altro giro di domande, se ci sono interventi, insomma, siamo sempre qua aperte. Non solo a livello di chi teorizza la rivoluzione, ma proprio le persone esempi di come questa cosa sta messa in grado. Volevo chiedere questo, intanto sono soltanto contenta, siamo tanto contenti che sei qui con noi, e questo è già un momento di grossa condivisione, una forma di resistenza, di ricordare anche in Italia, in Bologna. E tu dici, noi diciamo che la resistenza, la resilienza è un processo. Allora, in questo processo, mi chiedo, per la tua esperienza, non solo attuale, ma quella che hai fatto quando stavi a combattere contro l'ISIS, cosa ha significato, ad esempio, nel territorio del Rojava, il rapporto tra processo, tra virgolette, anche di militarizzazione delle compagne combattenti in montagna e invece delle donne, diciamo tra virgolette, laiche del tessuto del Rojava, delle donne kurde del Rojava, rispetto a un discorso di formazione. C'è stato un nesso tra queste due realtà in questo processo di rivoluzione e di resistenza tra le combattenti militarizzate, tra virgolette militarizzate, e le donne kurde del Rojava, dei villaggi che spesso sono state immerse e hanno subito molto patriarcato. Grazie. E poi volevo solo chiederti qual è la tua posizione attualmente rispetto alle leggi repressive dello Stato italiano e di Salvini che hanno posto dei problemi, credo, di non so come dite, di agibilità nel territorio da parte vostra. In che situazione siete gli altri compagni di Torino? Grazie. Faccio un giro veloce su queste due. 8 e 21, diciamo. Allora, non ho voluto essere troppo, diciamo, precisa nella ricostruzione, ma disambiguo ora la situazione, nel senso che ora io la situazione che ho descritto negli anni 90, parliamo di Bakur, quindi Kurdistan turco. Mentre la rivoluzione è nel Kurdistan siriano, quindi le strutture confederali appunto c'erano anche, stanno anche in Rojilat, anche per esempio in Iran, tra parentesi uno dei motivi, perché poi veniamo alla cosa geopolitica, però comunque diciamo quella kurda è come identità a livello numerico la seconda in Iran, quindi sicuramente diciamo in questo lo scenario che si sta aprendo ora, anche il avere da parte degli Stati Uniti uno dei motivi per cui hanno provato a tenere il piede in due scarpe, cioè in cui autorizzavano di fatto l'invasione da parte della Turchia, ma rimanevano a dire no, ma i kurdi bomba, è anche questo, perché comunque se tu vuoi ingaggiare un conflitto con l'Iran, che comunque è abbastanza nell'agenda statunitense da tempo, e Trump evidentemente ha deciso che vuole essere lui quello che porta, che fa il tick sulla casella in questo obiettivo, evidentemente comunque questa presenza ha giocato, quindi appunto il confederalismo democratico c'è in tutte cose, però diciamo a livello pratico quello che succede, quello che è successo è che si è fatto un lavoro capillare nella società, cioè si è elaborata una visione del mondo che è una visione rivoluzionaria, una visione che diciamo qui socialismo ha un altro significato purtroppo, però lì appunto viene definita socialista senza la vergogna del Partito Socialista Italiano. e che quindi sostanzialmente ti parlo, per esempio, quando io ho parlato con compagni e compagni del Bakur, magari anziani che appunto c'erano in quel periodo, e facevo domande simili, ti dicevano: sai qual è la differenza tra noi e altri gruppi? Altri gruppi andavano nella casa del villaggio, dicevano il rapporto di produzione, la classe operaia, la lotta, il capitalismo, così. Arrivavamo noi la volta dopo e la persona con cui avevano parlato arrivava e faceva: ma che cos'è il capitalismo? Noi dicevamo: vuol dire che te lavori e qualcun altro si prende i frutti del lavoro tuo. Cioè, questo per dire che si è trovato, a partire da quella visione del mondo, una visione del mondo è tale, quindi un'ideologia, un pensiero, in termini di pensiero sistematizzato, e quindi non di dogma, come spesso la intendiamo con una parola quando la usiamo qui, può essere narrata, può essere messa giù in vari termini. Infatti questa è la forza del pensiero di Ocalan. Sostanzialmente si può avere a che fare con i libri di Ocalan, che io consiglio a tutti e tutti di leggere, di risalire direttamente alla fonte, è sempre l'idea migliore possibile. Qui il mio mestiere, è un po' farvi venire anche delle curiosità, delle domande che poi favoriscano anche un processo di costruzione di saperi e di scambi anche autonomo, che parta un po' da chi ne ha voglia. Però appunto si può leggere il libro di Ocalan e confrontarsi con il pensiero di Foucault, con le massime nicciane, con il pensiero di Bookchin, cioè anche facendo con una disamina anche di larga parte di tutto il pensiero anche filosofico, politico, occidentale. Oppure la medesima cosa si può dire molto semplicemente, e c'è sempre, e si sta attenti a ciò. La differenza, per esempio, che io in Siria ho ascoltato discorsi del tipo: ma quando c'era Assad e diceva agli arabi: prendetevi le case dei curdi, e a noi ci le portava e a loro gli dava casa nostra, non è che hanno detto no, se ne sono prese le case. E quando però appunto questa rivoluzione partita da Reberapo, dal leader del Movimento di Liberazione comunque curdo, il suo il pensiero, il confederalismo democratico, ma siamo proprio sicuri che siamo uguali noi e sti arabi? Ma non è che noi abbiamo dato un po' di più e che forse dovremmo avere qualche privilegio per quanto ci è stato, che poi non è un privilegio, è tutto quello che ci hanno tolto prima, e avanti avanti tutti i pensieri che, se li metti comunque, li porti a una serie, li stressi un po', secondo me non sono tanto differenti da quello che si sente nei bar di questo paese. Ma in fondo che abbiamo in comune, ma in fondo sì, bella l'umanità, siamo due, però non è che siamo così uguali, mi sembra appunto, questo per dire che la differenza tra qui e lì è che qui questa cosa viene detta al bar e magari noi siamo lì che magari possiamo rispondere da soli così, oppure madonna mia, ci va di traverso il caffè e usciamo da sto bar. La differenza lì è che questi discorsi vengono fatti nelle case in cui le compagne e i compagni, e con compagni e compagni, Evalen proprio è un termine molto più largo e inclusivo di quello che effettivamente poi è ad oggi diventato qui, anche per purtroppo meriti della controparte, ma anche penso per nostri limiti, di coloro che si definiscono tali. Quindi non parlo per forza del quadro rivoluzionario, parlo anche della persona che pensa il quadro rivoluzionario può stare tanto nel militare quanto nel civile, non per forza ha l'arma in mano in quel momento, semplicemente ha fatto una scelta di adesione totale e assoluta all'obiettivo della rivoluzione, e quindi non mantiene spazi privati che sottraggano tempo a quella lotta lì. Ma vale anche magari per la copresidente, il copresidente della comune di quartiere. Però appunto queste frasi qua vengono dette, vengono raccolte e si risponde. Ma che cos'è essere curdi di per sé? Ma Barzani, che è il capo del KDP, che è il partito del Kurdistan iracheno, è curdo, ha gli interessi dei curdi? Non mi sembra. Vai al cimitero dei martiri, guarda quanti compagni e compagni arabi hanno dato la vita per questa rivoluzione. Che cosa c'è di differente tra te degli arabi? Perché dovremmo avere di più in quanto curdi? Che vuol dire questa identità etnica? E quindi pensate, se ci fosse la capacità di avere un movimento, un corpo collettivo che si muove insieme, che non solo ha una visione alternativa, cioè può dare delle idee alternative, ma proprio una visione complessiva del mondo, cioè ha un approccio olistico alla vita, perché si è identificata anche la scissione, il binarismo, la dicotomia di genere, ma non solo, anche la scissione soggetto-oggetto, mente-corpo, natura-cultura, uomo-donna, ovviamente, appunto, come strumento di fatto di dominio. Quindi c'è una strada per dialogare un po' da ovunque la prendi. Allora, la differenza sostanziale è questa qui. Cioè, io l'altra volta che abbiamo parlato con una compagna del Movimento delle Giovani Donne, abbiamo chiesto, ma voi che cosa fate? La prima risposta è stata, noi siamo ovunque le giovani donne siano. E questo è vero, perché poi dopo quasi un anno online posso dire che è vero, sono ovunque le giovani donne siano. Bussano di casa in casa finché e trovano il modo di farsi aprire, perché non è che stanno là ottusamente. Capiscono, cercano di capire dov'è il buco di comunicazione e cercano la soluzione, perché di fatto si parte dal presupposto che non sono i tuoi valori che creeranno il popolo in cui vuoi abitare, ma è dal popolo che tu prendi i tuoi valori, seppur appunto magari frammentati, seppur non rappresentati a livello di voce di massa. Ma tu sai che quei valori esistono, perché tante cose, cioè perché è lì che volgi il tuo sguardo. Allora, piano piano, una, due, tre, quattro, questo è un movimento che appunto è nato da sette persone, cioè sette, sono molte meno di quelle che siamo qui ora. Quindi pensate cosa potremmo fare, la sta stanza del sette hanno fatto quello. Questo per dire che semplicemente la differenza, ciò che è accaduto in Siria è questo, che dopo sulla scia delle cosiddette primavere arabe tutta la Siria è insorta, ma c'è una parte di Siria in cui si sono fatti la domanda del ma se decidessimo noi che cosa faremmo? Molto tempo prima il PED, che è il partito, la forza politica che ha guidato la transizione all'autonomia democratica, ha cominciato la propria attività politica e quindi di costruzione delle istituzioni confederali nel 2003, la rivoluzione arriva nel 2012, quindi no, ci sono quasi 10 anni di tempo, per cui a un certo punto, quando l'occasione politica si presenta, si è in grado di coglierla, perché il sud della Siria non è che era gente che non voleva cacciare Assad e per questo non c'è riuscita o non aveva una sincera appunto afflato anche verso una vita libera e differente, semplicemente purtroppo è un movimento quello che è stato preda delle infiltrazioni dalla Turchia, cioè la Turchia ha preso, proprio perché riguardava tutta la società, aveva anche le frange più conservatrici della società e anche quelle jihadiste, quindi ha armato le bande jihadiste che hanno potuto così schiacciare gli altri, sostanzialmente caso esemplare che io e altri, Davide Grasso in particolare perché l'ha conosciuto, io riportiamo spesso, è quello di Abu Leila, il comandante che ha, a cui è stata intitolata l'operazione di liberazione di Manbij, che ha guidato l'avvicinamento alla città e che poi è caduto martire prima dell'entrata nella stessa, e Abu Leila faceva parte dell'esercito libero siriano, cioè che sono i cosiddetti ribelli, quelli che sono. Adesso, per fortuna, io penso che sia stato spartiacque veramente il martirio di De Kosher, perché anche i media generalisti sono riusciti ad avere una soglia di decenza minima su questa storia, e quindi adesso abbiamo visto che seppure le stagioni mediatiche sono sempre più corte, sembra che appunto adesso va tutto bene, la guerra non c'è, e invece c'è tutti i giorni, però almeno si c'è la Turchia e i suoi proxy o bande o insomma, però era chiara la è chiaro il nesso a questo punto. Fino a qualche anno fa invece sti qua erano i ribelli siriani, era appunto un magma che di fatto è tutto appunto funzionale e volontario ovviamente dell'informazione, però appunto Abu Leila faceva parte dell'esercito libero siriano nel momento in cui la Turchia ha fornito i mezzi alle frange jihadiste dell'esercito libero siriano per piegare e dominare le altre. Chi invece si era unito a quella formazione con l'intento rivoluzionario se n'è andato e si è unito alle forze siriane democratiche, perché purtroppo ormai di là era andata, nel senso che l'esercito libero siriano, la Sham, cioè sono tutte formazioni che non hanno niente di diverso dall'ISIS se non essere riuscite ad avere tanto potere e tanto controllo territoriale, ma laddove ce l'hanno instaurano un tipo di società che è esattamente la stessa, tra parentesi la stessa che sta instaurando la Turchia stessa, perché di fatto ad Afrin, dopo un anno di occupazione, alle donne è imposto il velo, che fino a che c'era il confederalismo democratico era una scelta delle donne, cioè, quindi si costruisce piano piano, e soprattutto diciamo, io penso che ci sia una frase di Sheikh Ronai, che è una delle prime martiri internazionaliste di questo movimento, dice: l'impazienza è segno di scarsa fiducia nei propri obiettivi. Quindi sì, cioè si può cominciare in 7, però ecco, sono passati quasi 50 anni, quindi bisogna anche rendersi conto che se non abbiamo vinto finora, cioè o ci piangiamo addosso oppure analizziamo dove è stato il problema e dove abbiamo sbagliato, ma soprattutto non ci accontentiamo di quell'analisi, andiamo oltre e cerchiamo la soluzione. Quindi a livello pratico è successo che nel 2011 c'erano tutte le rivolte nel sud-ovest e nel sud-est, c'erano pochissime guardie di regime in Rojava, e per esempio Kobane, cioè non è stato sparato un proiettile la prima durante la dichiarazione d'autonomia democratica, perché tutta la popolazione, bastoni, pietre, è andata dalle guardie di regime dicendo: o te ne vai te o ti cacciamo noi. Quello comunque c'è l'esercito dell'era, magari un 55 anni, pure quella panzetta che stava là, che faceva un po' uno spiro italiano, nel senso impiegato statale qualunque, dice: ma che modo fate? Cioè, questi, vabbè che c'ho il calascio, però questi sono tutta compagna, cioè prima passate mi piano. Ma infatti tanti sono anche tornati poi. Cioè ci sono, oltre che la leva era obbligatoria, quindi chiunque sia nel confederalismo democratico ha servito Assad a un certo punto, l'esercito di Assad, ma altri l'hanno fatto magari con convinzione fino al giorno prima che è rimasto il confederalismo democratico, ci hanno pensato e detto: ma in effetti, e sono tornati. Quindi quello è successo, sono andati e hanno detto: siamo pronti per fare da noi. E effettivamente poi pronti non si è mai, effettivamente, perché però si era una base, si era costruita e su quella si è andati avanti, ma soprattutto appunto il discorso della rivoluzione come un processo, perché non si è, cioè era chiaro che il giorno in cui si dichiara l'autonomia democratica tutto comincia, non è che finisce, e si va avanti, si comincia un processo di discussione, di, per esempio la storia dell'università del Rojava, cioè l'idea del confederalismo democratico non c'ha l'università dentro, perché mette in discussione il sapere con la, cioè, la cultura con la C maiuscola, l'accademia e tutta una serie di cose. L'assemblea popolare è uscito che: ma noi ci hanno levato i certificati di nascita, non potevamo fare niente, la rivoluzione come senza università, io la voglio fare l'università. me la devi dare. Quindi si è tirata sull'università, perché quindi si cambia il corso d'opera e soprattutto appunto non ci si considera mai arrivati, ma non solo perché, cioè non è una cosa che penso debba essere così una massima che non trova concretezza, cioè se noi pensiamo qual è l'unico modo veramente per costruire anche un orizzonte, un modo, un'attitudine, anche uno stare insieme differente da quello del sistema, cioè è quella dei passi scanditi, è una visione sistemica, cioè funzionale a uno status quo della vita, perché vuol dire che è naturale che a un certo punto ci sono tutte quelle cose, no? Faccio mi diplomo, università, barra lavoro, comunque prima o poi lavoro per tutti, e poi a un certo punto c'è il matrimonio, il mutuo, i figli, il cane, mi appassiono le canoa, mi faccio una moto perché c'è la crisi di mezza età, cioè nel senso questa è l'idea della vita che arriva lì, punto. E se invece l'idea è un'altra ed è ristabilire anche una visione differente. Allora, per esempio, io questa cosa l'ho riflettuta molto a partire da una domanda che avevamo posto alla prima volta che abbiamo incontrato le compagne di Genealogy. Mi ha chiesto, ma le strutture autonome delle donne sono temporanee o permanenti? Dicendo temporanee, sappiamo la risposta. Mi ha detto, ma come temporanee? Beh sì, nel senso che a un certo punto la rivoluzione avrà cambiato la società in un modo tale in cui, no, e quindi non servono più, non perché non siano belle, per carità, tutto bellissimo, però insomma abbiamo detto che la società è mista, una serie di cose, ma scusa, ma tu, cioè, quando è che mi sai dire che siamo libere? Perché se ti è chiaro, diccelo, cioè, adesso la sto banalizzando per renderla un po' più anche così leggera, perché sta parlando una cifra, però cioè, il discorso è quello, che cosa fosse, e di nuovo, cioè, la scuola, la formazione sta crescendo in questo momento delle persone molto diverse da quelle che hanno creato questa rivoluzione, quindi la loro sensibilità, la loro asticella sarà più alta, per, si spera e per fortuna. Quindi l'idea che avrò io anche del momento in cui le strutture autonome delle donne, dei giovani, di chiunque si voglia costituire anche in maniera tale, sono il giorno in cui non sono più necessarie, probabilmente non è l'idea che avranno le persone che si troveranno nel momento storico in cui effettivamente si saranno arrivate a spuntare tutte le caselle della griglietta che gli avevo disegnato io. Quindi, così. Il rapporto tra, diciamo, io sintetizzo un po' la cosa, tra il rapporto tra società e militanti, mi sembrava un po' la questione. E anche qui condivido con te un pezzo della mia formazione, nel senso che nella lezione che io ho fatto, cioè i giorni di discussione che noi abbiamo fatto nella mia formazione sulle Valtì, sull'amicizia, io a un certo punto dicevo, vabbè, ma se quindi io faccio una scelta totale, di adesione totale a questa causa, cioè sono disposta a dare la mia vita, e qualcun altro la supporta tantissimo, convintissimo, si spende molto, ma fa una scelta diversa, io posso pretendere da quella persona meno di quanto posso pretendere da una che ha fatto la mia stessa identica scelta, e giustamente anche perché ha deciso di stare, diciamo, in altre regole, in qualche modo, non distanti, però appunto non ha scelto di non avere proprietà, o tutta, non ha scelto di non farsi una famiglia. E quindi io, da una persona che ha famiglia, non è che pretendo una disponibilità di tempo tale e quale a quella che do io. E questo è vero, sì. Però quello che mi è stato risposto, ha detto sì, per carità. Però quello che compiamo, un discorso è che ognuno può dare cose differenti, e questo è liscio, e un altro è che ci sono gradi di amicizia, cioè se io non ho l'idea che posso raggiungere con la prima donna che incontro per strada, se faccio, poi vabbè, o magari si scopre che è una fascista proprio, vabbè, a parte casi limite, diciamo, nel mare magnum della società, Se io non penso che posso raggiungere con la prima donna che incontro, con cui ho un obiettivo in comune, lo stesso grado di ebaltì che ho con le mie compagne, con cui abbiamo già fatto un certo tipo di scelta insieme, allora io, cioè, come posso andare in giro sostenendo che penso che potrò cambiare la società? Cioè, la differenza è, la posta in gioco è cambiare la società e non riprodurre la classe militante dei rivoluzionari. Cioè, il quadro rivoluzionario che un mestiere ha di rendersi superfluo. Cioè, tu devi costruire cose che vanno avanti senza di te. E se funzionava tutto benissimo finché il centro giovani lo dirigevi tu, c'era tutto il quartiere, tutte le giovani donne nella città venivano lì, e quando te ne vai tu se vede più nessuno, nessuno dirà mannaggia quanto ci manchi, tutti diranno ma che problemi c'hai, cioè, ma come hai lavorato che nessuno è in grado di fare una cosa senza di te. E, beh, per me questo è qualcosa di molto differente dall'esperienza che spesso facciamo qui, e non, appunto, con questo non voglio minimamente screditare quello che accade qui o non dargli valore, è proprio il contrario. Cioè, se si crede in quel che si fa, se gli si dà importanza, noi, anzitutto, allora può fare una differenza. Perché se non gli si dà valore, se è un gioco, chi vuole lo gioca, chi si stufa va via, e soprattutto si vince, si perde, vabbè, e poi si fa un'altra partita magari. Se invece stiamo effettivamente costruendo un'alternativa e crediamo in questo, ma veramente, cioè, io penso che questa rivoluzione parli, cioè è riuscita a sconfiggere l'ISIS, riuscita a resistere di fronte al secondo esercito della NATO. Sono 40 anni che li bombardano, fanno di tutto, e cioè qualunque forma di violenza viene messa in atto nei confronti di questo popolo e di chiunque si mostri solidale con esso, di chiunque ne condivida le idee del suo movimento rivoluzionario. Eppure siamo ancora qua, eppure siamo un centinaio di persone a parlare di questa rivoluzione. Cioè, la determinazione, il sapere per cosa si combatte, la convinzione nell'obiettivo fa la differenza sul campo di battaglia, come fosse un'arma. Che non vuol dire che le armi si fermano con la determinazione, le armi si fermano con altre armi, punto. Ma di fronte alle tecnologie della NATO, cioè, comunque se riuscite a resistere, per esempio ad Afrin, per quasi 2 mesi, di fronte a un Erdogan che ha detto ci prenderemo Afrin in una settimana, si continua a resistere a Tiltemir, si continua a resistere ogni giorno per un fatto molto semplice, perché si sa che cosa si sta facendo, ma soprattutto vale la pena farlo. Cioè, è una vita migliore quella che si va a costruire, e ci sono donne, compagne, compagni che hanno dato tutto per questo, e non si può fare che la loro vita sia passata in vano, non li si può di fatto consegnare alla morte. Quindi quello che noi dobbiamo fare è mantenere alto il loro ricordo, perché poi è anche scrivendo la nostra stessa storia che siamo in grado di mettere a fuoco il futuro, che mentre anche lo costruiamo ridefinisce il passato nei termini in cui, appunto, che noi nei libri di storia abbiamo certe figure e non altre, è qualcosa che si sceglie, è qualcosa che non capita per caso. Allora c'è un rapporto ovviamente anche tra ogni conquista che facciamo, che ritira fuori, ridà possibilità di vivere a magari tutta una serie di anche figli, esperienze con cui anche noi siamo in continuità e magari neanche ce ne rendiamo conto. Quindi, per esempio, una cosa che lì si è fatto è stato anche recuperare tutta una serie di valori, di detti, di tradizioni che di fatto sono in assoluta continuità, in assoluta armonia con una serie, con i valori rivoluzionari. Per esempio, Yekiti, Afekir, Zekir, Uchalaki. l'unione del pensiero, della parola e dell'azione. Questo è un motto zoroastriano. Eppure non fa una piega, perché se qui si dicesse, se i nostri politici facessero quel che dicono, pensassero decentemente, penso che il mondo sarebbe non bello, perché non credo che questo sistema abbia un grado di perfettibilità, ma sicuramente migliore. Noi queste persone le dobbiamo inchiodare alle loro responsabilità, mentre creiamo l'alternativa per farne a meno. Interventi vanno tre domande. Io volevo dire una cosa, diciamo, tornando un po', cioè ringrazio tantissimo Eddie, perché veramente le sue parole sono state un flash, diciamo, mi hanno dato molti spunti e sono state veramente preziose. Volevo tornare un attimo all'inizio del dibattito, in cui ci chiedevamo un po' anche come effettivamente una rivoluzione del Rojava è una rivoluzione che si sta facendo nella società, in quella parte del mondo, possa in qualche modo essere connessa con le nostre lotte e con le nostre quotidianità in posti anche molto diversi, molto lontani, perché chiaramente la nostra società, noi siamo da quella parte del mondo che insomma, se ce l'hanno loro il problema del capitalismo, noi ce l'abbiamo sicuramente altrettanto, per non dire forse per alcune cose anche di più, perché siamo noi quel capitalismo, quindi abbiamo il doppio spettro di decostruire noi stesse e di vivere in una società con tutte le contraddizioni che però è per una società là. Una cosa interessante, diciamo, secondo me, da cui si può partire, che Eddie nei suoi vari interventi due parole non sono tornate, educazione e auto-organizzazione, o comunque come si sono organizzate. Credo che in questo senso noi, la connessione con le lotte è una questione della processualità. Cioè la processualità, la rivoluzione è un processo, il cambiamento è un processo, l'educazione è un processo, l'educazione è rivoluzionaria, perché quello che intendiamo come educazione molto spesso, soprattutto poi proprio noi, la cultura bianca, noi in Occidente, è propaganda nella maggior parte dei casi, cioè perché le nostre scuole, i nostri libri, l'educazione, diciamo, che viene mainstream, praticamente ormai non ha più neanche tracce di nulla di libertario, cioè stiamo parlando che noi viviamo e agiamo in un sistema completamente immerso in questo tipo di contraddizione. La funzione rivoluzionaria dell'educazione in questo senso trova, secondo me, un dato fondamentale che a noi in Italia ora ci serve è la partecipazione. La partecipazione attiva, che sta alla base dell'auto-organizzazione, dell'educazione e anche dell'essere compagno, perché che cosa vuol dire, no? Questa parola ricorrente che anche noi in Italia ovviamente rendiamo un significato fortissimo, poi però deve trovare delle applicazioni pratiche. Quindi sull'educazione, la funzione rivoluzionaria dell'educazione in questo senso può essere la messa in discussione effettiva. Quando noi parliamo di rivoluzione come processo, Eddie citava giustamente, ma anche nel nostro caso proprio specifico di Roma di meno, lo sciopero inteso come processo, perché poi lo sciopero, appunto, un po' che cos'è, no? Perché lo sciopero femminista ha scardinato un po' l'idea di uno sciopero più, diciamo, legata a una dinamica divertenziale o comunque su una problematica specifica lavorativa salariale in grossa parte. Perché comunque tutta una serie di comportamenti che compongono la nostra vita, la nostra quotidianità, essendo noi immersi in queste contraddizioni, Cioè, la nostra stessa vita è un continuo dover ribadire che noi in queste cose non ci vogliamo stare, che noi siamo un'altra cosa, che noi siamo un'alternativa. La cosa veramente rivoluzionaria quando diciamo un altro mondo è possibile, un altro mondo non solo è possibile, un altro mondo c'è, ma è, cioè, sono loro un altro mondo, non siamo noi. Cioè, nel senso, questo senso di anche di appartenenza a una lotta globale, a una resistenza globale, perché effettivamente è oppressione globale, declinata in tantissimi modi diversi, con delle specificità che sono specificità geopolitiche, che ovviamente sono diversissime fra tutte le situazioni che abbiamo citato, e ne potremmo citare molte altre. Però una funzione della partecipazione attiva nel creare un'educazione, una organizzazione dal basso, è perché effettivamente in questo genealogy, no, con la messa in discussione Osamane, le compagne e i compagni curdi, con la messa in discussione della scienza, del sapere originale, comunque del sapere, scusate, non originale, del sapere comunemente accettato, quello che viene riprodotto costantemente. La messa in discussione di quella cosa lì ci consente in automatico un'unione più forte, perché ci riconosciamo di fronte a una serie di cose che non ci rappresentano, perché l'educazione non ci rappresenta neanche a noi, sicuramente non rappresenta le persone, per esempio, che siamo qui, come tante altre persone. Quindi credo che da questo punto di vista la partecipazione attiva, quando Eddy diceva, cioè, un'immagine che mi ha ricordato un po' un mix tra Rocky e Formetto e Scientology, bussavano di porta in porta, ma quella era una cosa diversa però. Cioè, quel bussare da porta a porta era una dinamica di quasi avere, non poter non condividere, perché se tu scopri una cosa bella vuoi che tutte le persone stiano bene con te e ne facciano parte. E quello che noi possiamo fare proprio per dare, diciamo, una realtà a questa processualità. Cioè, come li dobbiamo mettere insieme questi pezzettini? Questi pezzettini, secondo me, li possiamo mettere insieme solo partecipando e costruendo le cose effettivamente insieme, senza, diciamo, lasciarsi pervadere dai meccanismi che sono dentro ognuno di noi, soprattutto dentro il fottuto capitalismo, cioè quello di la mia idea è meglio della tua, io sono più brava, io sono più figa, io sono ma unica, lo facciamo solo noi. No, lo facciamo tante persone, lo facciamo in tanti modi, però lo dobbiamo fare. Quindi secondo me, in questo senso, quello che noi possiamo prendere, perché poi l'emulazione è una cosa che secondo me è intanto cercare di emulare la rivoluzione del Rojava, curdo, comunque in confederazione, e emularlo sarebbe la più grande sconfitta di quella rivoluzione, perché loro mi hanno messo sul piatto proprio dicendo: noi abbiamo fatto queste considerazioni e sono le nostre considerazioni, sperando che ci sia un discorso per cui altre persone si organizzino in altre parti del mondo. Cioè, noi dobbiamo trovare la nostra chiave, diciamo, rivoluzionaria che funzioni per noi. Perché prendere pacchetti, come diceva Eddy, non è che ti imbeve, cioè Panoramix e ci imbeve e diventiamo. Per costruire questa cosa, forse la partecipazione attiva nell'educazione è quando diciamo, no, di prenderci cura, cioè prenderci cura dell'educazione. L'educazione è, non arriviamo mai a un punto in cui c'è conoscenza. Quindi anche iniziare, diciamo, a dare riferimenti altri, a fare circolare altre informazioni, a creare momenti come i dibattiti, come delle presentazioni, cioè veramente dare voce a tutto un altro tipo di cultura che esiste già. E quindi secondo me la partecipazione può essere il punto di partenza da cui noi possiamo costruire in Europa, in Italia, un'effettiva rivoluzione che sia una rivoluzione sociale che trasformi le nostre vite, perché sennò anche lì siamo sempre poi a parlare di quest'utopia come se fosse, no, sta rivoluzione che, oddio, ma sta rivoluzione è anche molto più vicina, cioè Noi lo vediamo quando sarà cambiata questa società, perché staremo meglio, perché anche i piccoli cambiamenti quotidiani, le piccole vittorie. E in questo senso, per esempio, noi, come non nulla di meno rispetto anche alla questione dello sciopero, questo problema è questa, diciamo, un problema di come organizzare, di come incanalare, organizzare questo processo, ci confrontiamo quotidianamente. Credo in questo senso che appunto un grande connettore di lotte possa e debba essere l'auto-organizzazione e l'educazione, perché noi possiamo e dobbiamo trovare delle formule che vadano bene per l'Italia, e le troveremo, ma le troveremo solo se veramente non vogliamo fare e lo facciamo, perché stare a procrastinare e a fare discorsi solo teorici molto spesso è controproducente. Cioè, il mio invito è veramente: facciamo di tutto per mettere in difficoltà questo sistema, perché più lo mettiamo alle corde e più ha paura il sistema, perché poi anche abbiamo paura noi, ma non è che abbiamo paura solo noi, cioè, perché Erdogan c'ha più paura della rivoluzione curda di quanto la rivoluzione curda abbia paura di Erdogan, perché se no i curdi non sarebbero mai ancora. E quindi in questo senso noi quello che ci dobbiamo a noi e a tutte le persone che lottano nel mondo, anche in una maniera purtroppo più violenta, perché noi siamo in una parte del mondo dove per ora almeno questo tipo di guerre e devastazioni ora non ce le abbiamo. E quindi, diciamo, utilizzare e organizzare la nostra rabbia in una dinamica veramente che sia produttiva, cioè che di fare cose per fare vedere che noi esistiamo e che noi anche di qua lo abbattiamo il patriarcato veramente, però, e arriviamo che veramente possiamo dire: noi facciamo la lotta ora perché ci sarà un momento in cui sta lotta non la vogliamo fare più, perché abbiamo raggiunto dei piccoli cambiamenti. Se no è un serpente che si morde la coda e noi facciamo i dibattiti sulle rivoluzioni degli altri. Noi la dobbiamo fare qua, la rivoluzione, e la possiamo fare, quindi organizziamoci a farla. Cioè. Dato che sono le 9, non so, cioè, se vogliamo, possiamo continuare, non lo so, le ragazze, i ragazzi. No, io ho una proposta invece, se qualcuno c'ha proprio delle domande che si vuole, ora o mai più, perché andare avanti per sfinimento non è mai una buona idea. È stato un bel incontro, sono state tante e tante, piano piano però, insomma, cioè, no, diamoci una fine, raccogliere le ultime domande e poi tutti a casa e se magna. Buonasera a tutto. E io in realtà non ho una domanda, ma solo un piccolo intervento. Cerco di essere molto breve, perché chi mi conosce sa il mio tipo di intervento. Cioè, collego quello che ha detto prima a te, e ovviamente sono io personalmente sono molto emozionato per questa assemblea, per vedere e di conoscere di persona, insomma, e di sentire tutte quelle storie che ci ha raccontato e tutto quanto. Io penso, ed anche dalla mia piccola esperienza, chi mi conosce sa che vengo dalla Libia, abbiamo che fare, diciamo, sia prima sia al momento nella situazione attuale. Io penso, già ho annunciato questo, diciamo, richiamo un appello a tutto il mondo, a tutte le collettive, i movimenti che credono veramente della rivoluzione, di fare un po' attenzione su quello che sta succedendo nell'altra parte del mondo, perché purtroppo non c'è questo focus, diciamo, non c'è abbastanza focus su di quello che sta succedendo realmente, veramente nel mondo, in cui parlo almeno per diciamo quelli che le chiamano le vere arabe, cioè le primavere arabe, però il fatto che qualcosa che ho vissuto io almeno cioè personalmente per 5 anni nel campo di guerra, però non solo di guerra, ma anche di politica, di movimentazione, di tutte quelle che siamo, abbiamo cercato di farlo dopo le cadute del regime, di andare avanti, di costruire veramente del basso una lotta sociale, una lotta di classe, una lotta contro il razzismo, contro il capitalismo, contro il colonialismo, perché purtroppo il colonialismo non è finito delle nostre terre, delle nostre società, c'è ancora fino ad oggi, fino a domani, e spero di no. Il fatto che siamo trovati da sole nel mezzo e senza che il mondo parlasse niente di quello che sta accadendo, cioè personalmente, cioè, l'ho scritto in varie lingue, cioè nel 2011 di ISIS, di Daesh, che sono veramente hanno occupato dei grandi spazi delle terre finché che l'hanno preso quasi tutta la Libia, e in cui veramente ho vissuto sulle mie pelle quando, cioè, quando ho visto che i compagni cadono vicino a me, l'ho vissuto sulla mia pelle quando sono stato in carcere. Non sto dicendo questo per dire che sono stato in carcere, ma per dire che situazioni stanno vivendo le persone lì, soprattutto le donne, perché le carceri, come ha detto la signora prima, iraniana, le stesse cose. Perché quando siamo alzati dal nulla, abbiamo cominciato a costruire, come hanno fatto le compagne curde, di andare avanti. E però alcuni, cioè, che le stesse cose che le hanno fatto, e questo penso che è una cosa comune, che si parla ultimamente in Libia della rivoluzione curda, che dobbiamo prenderla come un esempio. Di andare veramente, di costruire in mezzo adesso, in mezzo a questa follia che sta accadendo al momento lì, la stessa cosa che sta cercando tanti persone di farla in Marocco, però nessuno parla del Marocco, raga. Cioè, parlo di Marocco quando si dice Marocco è un bel paese, quando si va a fare la... quando si va in viaggio, no? Però veramente c'è una rivoluzione. Qualcuno ha nominato la rivolta che è scatenata nelle montagne, nelle zone del Berbere, che veramente hanno le stesse, diciamo, credono in sé, la stessa idea, la stessa rivoluzione curda. Nessuno si parla e nessuno ha parlato, e sicuramente nessuno parlerà. E nel deserto, in mezzo al deserto, cioè. E ovviamente non voglio adesso tirare un discorso geopolitico, però, cioè, il mio intervento ti fa veramente un fox su quello che sta accadendo, che veramente c'è altre Rojava, c'è altre rivoluzioni curde in modalità diversa in altra parte del mondo. Grazie. Ci sono, c'è stata fatta anche una, c'è un comitato di genealogi in Italia, quindi, che lavora, c'è anche Rete Gin, quindi c'è un lavoro che viene fatto costantemente. Io voglio dire solo una cosa su questo, perché ci tengo, che critica e autocritica funzionano quando c'è un'ideologia, quando c'è un'idea comune al centro, che ci tiene insieme e che ci dà la direzione verso cui quella critica e quella critica. Poi c'è un grado di arbitrarietà, ovviamente, è tanto legato anche alla percezione, tutta una serie di cose. Però questa è una cosa fondamentale. Allora, che non si pensi che si possano introdurre strutture di critica e autocritica tra gruppi che non hanno un'idea in comune, neanche tra persone che nello stesso gruppo non si sono mai confrontate su quello stesso argomento, perché questo io ho notato che purtroppo è un grosso limite, no? Oltre che comunque critica e autocritica sono gli strumenti più vetusti che possiamo immaginare, cioè nel senso in positivo, non si è inventato il movimento di liberazione curdo, era tanto cara alle organizzazioni comuniste anche 800, cioè Ottocento e Novecentesco, quindi cioè, è anche come si danno le cose, no? Non per forza. Stalin era un grandissimo fan della critica e dell'autocritica, per esempio. Quindi questo per dire che appunto non per forza producono poi dei processi di cambiamento troppo positivi. E questo giusto lo dico perché ci tengo a che noi abbiamo un atteggiamento appunto nei confronti di questa rivoluzione che è quello che si diceva appunto prima, cioè c'è uno scontro globale in atto, quella è la punta più avanzata di conflitto di questo, in questo momento, in questo scontro, ma noi ne siamo parte e dobbiamo fare il nostro e dobbiamo avere gli occhi tesi a capire dove abbiamo alleate, alleati, alleati. Quindi secondo me assolutamente è necessario, soprattutto di genealogi, penso sia qualcosa di fondamentale, perché è uno strumento concreto, è uno strumento che anche fa tanto diciamo suo il motto femminista del partire da sé, perché appunto si parte, è la propria storia, e quindi non è la storia delle donne curde, ma genealogi è anche la nostra, è appunto rivedere e mettere in discussione le scienze ufficiali, come anche diceva Ade poco fa. E quindi secondo me sì, moltiplichiamo sempre più momenti cose, se vorrete invitarmi io sarò felicissima di esserci, ascoltare e scambiare opinioni, magari appunto questa volta ascoltando senza che devo parlare, perché cioè, ci sono anche altre persone che possono diciamo con cognizione di causa parlare di questi temi, però penso che veramente la cosa più importante sia che noi non dobbiamo supportare quella rivoluzione per loro, cioè come il patriarcato non è un problema per le donne, ma non è un problema delle donne, diciamo, no? O delle soggettività che in esso trovano le forme più feroci di oppressione. Quindi anche lì mi piaceva come lo dicevate, cioè forse è più un problema nostro che loro, non nei termini in cui loro, cioè i prezzi che il capitalismo fa pagare sono differenti. E noi ne paghiamo, non paghiamo quello che paga chi riceve le bombe e i carri armati e i campi di prigionia e cioè lo stupro come arma di disciplinamento quotidiano. Non paghiamo lo stesso prezzo, questo è importante dirlo, però non è che stiamo bene. Cioè, comunque non, quindi a volte laddove è vero che abbiamo un privilegio, che questo privilegio non venga preso, diciamo, elaborato con moralità cattolica del cilicio, bensì prendiamoci la responsabilità di questo privilegio nei termini in cui siamo nella pancia della bestia e dobbiamo per forza infliggerle un colpo mortale, perché quella rivoluzione da sola non lo fa. Noi da soli qua non lo facciamo, allora lo scontro è in atto. In alcune parti, in alcune battaglie di questo scontro stiamo anche vincendo. Allora, cosa aspettiamo? L'11 ricordo per sabato a Bologna, manifestazione per dare anche corpo alle belle parole che ci siamo detti oggi, perché non c'è teoria senza pratica, quindi ci vediamo in piazza.